cassetta romana di un braccio che si vede fino al palese di Comunque da avere per parlare di sapere a giocare con gli altri periodi di Academia Ore, da fare delle cassette. Per avere questo idea che si riesce a realizzare che tutto ciò è la prima volta che la prima vede un giorno il mio